اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. Walla esalta Muhammad, la nostra guida tra i primi. Wasalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Esalta la nostra guida Muhammad tra gli ultimi. Salli ala sayyidina Muhammad fil mala'i al-a'la. E esalta la nostra guida Muhammad nel consesso superno. Ila yaumiddin, fino al giorno del giudizio. Wasalli ala sayyidina Muhammad, esalta la nostra guida Muhammad fi kulli wahtin wahin, in ogni tempo ed in ogni occasione. Wasalli ala jami'il anbiya'i wal mursalin, esalta la famiglia dei profeti e degli inviati. وعلى الملائكة المقربين gli approssimati alla tua maestà وعلى عبادك الصالحين e i tuoi pii adoratori وعلى أهل طاعتك أجمعين e tutti gli appartenenti alla famiglia dell'obbedienza ورحمنا معهم birahmatika ya arhamar rahimin. E usa anche a noi insieme a loro la tua misericordia, o più misericordioso dei misericordiosi. Walhamdulillahi rabbil alamin. E la lode tutta appartiene ad Allah, il Creatore, Signore e Padrone di tutti gli universi.